GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Chili di dinamite cancellano l'area a caldo della Ferriera di Servola, pronta entro il 2026 la piattaforma logistica. Nuovi assetti geopolitici e questioni energetiche, Trieste snodo internazionale al convegno annuale della rivista Limes. 100.000 presenze, Pordenone legge, chiude l'edizione della ripartenza della Festa del Libro con numeri da pre-pandemia. Meno numerosi ma più generosi donatori di sangue della FDS a Gemona, servono più giovani per compensare gli anziani. Storie dal cimitero, quello israelitico di Trieste, aperto ieri alle visite guidate per la giornata della cultura ebraica. In Friuli Venezia Giulia circa 1.200 emodializzati, bilancio sui trapianti con l'ANED, positivo nonostante la pandemia. Un pomeriggio da prima in classifica, l'Udinese straccia l'Inter e vola, Mister Sottil, vittoria ampiamente meritata. Podio tutto keniano, la maratonina di Udine, il 900 ieri la partenza della competizione cittadina. 7:19 minuti di lunedì 19 settembre. Buongiorno da Andrea Saule e Rita Micoli. In apertura uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 17 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi. A Gorizia e Udine 13 gradi, a Pordenone 12,5 gradi. A Tolmezzo 12 gradi. A Tarvisio 7 gradi, a Forni di Sopra 6 gradi e 5 decimi, a Sappada 5 gradi, sul Piancavallo 4 gradi e mezzo, su Monte Zoncolan e Monte Lussari 3 gradi e 5 decimi, a Lignano e Grado 16 gradi e mezzo, temperatura del mare nelle due località 20 gradi. Queste invece le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con vento moderato da nord in pianura e sulla fascia lagunare, sui monti in quota soffierà vento sostenuto da nord o da nord-est. Nel pomeriggio il vento da nord in pianura si attenuerà, mentre sulla costa prevarrà vento di bora moderato. L'atmosfera sarà in genere molto secca, specie in pianura. Alle 20 di ieri sera, grazie a 300 chili di dinamite e 570 detonatori, sono stati demoliti 4 edifici e una ciminiera che componevano l'area a caldo della Ferriera di Servola. Finisce così un'era e ne comincia un'altra. Al posto dello stabilimento siderurgico sorgerà una nuova piattaforma logistica al servizio del porto. Prima una sorta di fuochi d'artificio, poi le detonazioni che si confondono con lo spettacolo pirotecnico e 5 edifici vengono giù grazie a 300 chili di dinamite e mezzo chilometro di micce. Ad assistere su una banchina attrezzata per l'occasione un gruppo selezionato di invitati, tra cui il ministro triestino dell'agricoltura Patuanelli e il presidente della regione Fedriga. Con tanto di colonna sonora rubata a un famoso western di Sergio Leone e un secondo tempo di fuochi d'artificio, finisce l'area a caldo della Ferriera, lo storico impianto siderurgico chiuso 2 anni fa dopo 123 anni di storia ripercorsa con alcuni filmati d'epoca. Una storia costellata di battaglie per il mantenimento dei posti di lavoro e poi di proteste contro l'inquinamento prodotto dallo stabilimento. Nei prossimi giorni la demolizione sarà completata, il ferro sarà separato dal calcestruzzo, il materiale recuperabile farà da sedime ai piazzali che prenderanno il posto della ferriera. Sarà una nuova piattaforma logistica del porto dove arriveranno i treni per caricare i contenitori scaricati dalle navi. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Trieste sempre più al centro dei nuovi equilibri geopolitici internazionali, anche e soprattutto sul fronte energetico. L'argomento è stato al centro del convegno annuale della rivista Limes che si è svolto in città, convegno dedicato al mare italiano. Dall'inizio della guerra in Ucraina il Mediterraneo ha cambiato temperatura, è diventato luogo di confronto e di ridefinizione delle sfere di influenza in un conflitto che rimette in discussione equilibri globali ma anche catene logistiche, approvvigionamento energetico. Se ne parla nel convegno annuale della rivista Limes a Trieste dedicato al mare italiano. Nello scenario geopolitico attuale Trieste è diventata fondamentale. Per l'Alleanza Atlantica è il perno meridionale della linea di difesa contro la Russia che sale fino al Baltico. Lucio Caracciolo, direttore Limes. Questa dimensione militare del porto mi pare che non sia spesso colta nel nostro paese, ma è sempre bene tenerla presente, perché oltretutto Trieste, sempre dal punto di vista americano, è il porto delle basi del nord-est, in particolare di Vicenza e di Aviano. Un assaggio lo si è avuto a fine aprile con l'approdo in città della portaerei Truman, ma Trieste è centrale anche nella questione energetica. Siamo a pochi metri dal famoso oleodotto che qui sbocca nel porto di Trieste e poi va su in Germania a portare gran parte del petrolio che alimenta l'economia tedesca, quindi questo è già un punto. Ma più in generale la crisi energetica che è scoppiata in parte precedentemente la guerra per l'aumento dei prezzi e poi per le sanzioni e le controsanzioni avrà un impatto, temo, economico, sociale e geopolitico molto importante nei prossimi 2 o 3 mesi. In questo scenario il porto di Trieste non può più essere visto in un'ottica tradizionale. Zeno D'Agostino, presidente Porto Trieste. C'è la seconda, diciamo, chiave di lettura, che è vedere in ottica geopolitica che cosa significa essere un porto in generale, Trieste in particolare, di fronte ai nuovi ruoli che i porti possono avere, quindi in ottica di hub energetici, in ottica di hub tecnologici. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. All'Ateneo Friulano alle 9 a Palazzo Antonini sarà inaugurata l'ottava edizione della scuola estiva di introduzione alle energie rinnovabili. Il corso del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, in programma fino al 24 settembre, affronterà con gli iscritti 35 numerosi aspetti delle fonti di energia rinnovabili e del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici. Gli appuntamenti mattutini della giornata inaugurale saranno aperti al pubblico fino all'esaurimento dei posti disponibili. Ne abbiamo parlato con la direttrice della scuola, Marina Cobal. Si è sempre parlato ormai dagli anni 60 che monitoriamo l'aumento di CO2 nell'atmosfera, della crisi, del clima, di tutti questi cambiamenti a cui stiamo andando incontro, che hanno anche impatti che stanno diventando violenti, abbiamo visto non solo sul tempo ma anche sulla società, sull'economia. Ma quello che ha veramente attirato l'attenzione di tutti è stata la guerra con l'Ucraina, no? E questo chiaramente ha portato, con le minacce della Russia di chiudere i rubinetti del gas, che costituiscono praticamente il 38% del gas che importiamo in Italia, ha veramente fatto scattare un allarme nella testa di tutti. Abbiamo visto anche con la nostra scuola, ha praticamente raddoppiato il numero degli iscritti quest'anno, allargandosi anche oltre i confini del Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo iscritti dal Piemonte, dal Lazio, dal Veneto, dal Trentino. Cosa si insegna a questa scuola e a chi si rivolge? Praticamente in questa scuola affrontiamo tutti gli aspetti più importanti a livello di introduzione delle varie fonti di energia rinnovabile e del loro sviluppo in risposta appunto ai problemi climatici e energetici di cui si parlava prima. È introduttiva perché affronta i vari tipi di fonti di energia rinnovabile, quindi parliamo di solare termico, di fotovoltaico, di eolico e così via. La scuola è indirizzata soprattutto agli studenti, è una scuola di orientamento per chi magari poi vuole scegliere una laurea specialistica su queste tematiche. Anche a Udine abbiamo un corso di laurea magistrale proprio dedicato a queste tematiche, ma anche agli operatori del settore che magari vogliono acquisire una visione un pochino più d'insieme. Abbiamo 5 giorni di attività in cui ci sono lezioni frontali, ma anche attività di laboratorio e visite a siti di interesse. E una dei punti più importanti, dei momenti più importanti, è il mercoledì pomeriggio, in cui abbiamo l'incontro con le aziende sponsor. Voltiamo pagina. Pordenone, ieri in serata gli ultimi appuntamenti di Pordenone Legge, che ha chiuso con un più che positivo bilancio. Si torna ampiamente sopra le 100.000 presenze a Pordenone Legge, la festa del libro con gli autori. È stato il 25 aprile della cultura, una grande festa di popolo e di libertà, ha dichiarato il presidente di Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti, che si è detto molto soddisfatto per il successo di questa 23esima edizione. Quasi 600 gli scrittori intervenuti alla manifestazione, tra loro anche 3 premi Pulitzer, Joshua Cohen, Giunpa Lahiri e Jericho Brown. Nel corso di 300 eventi ospitati in 41 diverse location, in città e su tutto il territorio della destra Tagliamento, oltre alle città di Trieste e Lignano Sabbiadoro. Grande rilevanza in questa edizione hanno avuto lo sguardo verso le radici democratiche dell'Europa, con un focus letterario dedicato all'Ucraina e ai suoi autori, e il filo rosso con Praga, da dove il festival era partito con un'anteprima a inizio settembre, un gemellaggio culturale che non termina qui, assicurano gli organizzatori del festival. Pordenone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra i protagonisti dell'ultima giornata di Pordenone Legge, Antonio Scurati, che davanti a un folto pubblico ha parlato del terzo volume della saga incentrata sulla figura di Mussolini. È giunta al terzo capitolo la saga di Antonio Scurati su Mussolini e il fascismo, un racconto originale della storia, vista attraverso le parole e i pensieri dei protagonisti. M, gli ultimi giorni dell'Europa, narra i tre anni tra il 1938 e il 1940, quando alla fine l'Italia entrò in guerra con i nazisti. Mi sono chiesto che cosa vedeva Mussolini quando guardava Hitler, perché noi oggi lo giudichiamo col senno di poi, sapendo tutto ciò che di atroce è accaduto. Ma loro cosa vedevano? Cosa vedevano i fascisti quando guardavano i nazisti? Si accorgevano del lato demoniaco, no, di questo movimento politico? E il libro si apre proprio così, con Hitler che sbarca dal treno calato dalla Germania con un seguito di 300-400 suoi cortigiani in visita di Stato in Italia nella primavera del 1938 e viene a cercare di attrarre a sé Mussolini. Altro passaggio chiave della fase finale del fascismo è la promulgazione delle leggi razziali annunciate nel settembre del 38 a Trieste. All'epoca era la più dura e spietata legislazione razziale del mondo, compresa la Germania nazista di allora, perché tra i vari provvedimenti primi che adottano c'è l'espulsione di tutti i bambini dalle scuole d'Italia, del Regno, cosa che nemmeno i nazisti allora avevano ancora fatto. Il libro si intitola Gli ultimi giorni dell'Europa perché allora, con il concorso dell'Italia e degli italiani, la grande civiltà europea morì. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone Legge anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha ricoperto l'incarico di commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Pordenone Legge Francesco Paolo Figliuolo si presenta in borghese, anche se il lavoro se lo porta sempre dietro, ora che svolge il ruolo di coordinatore delle missioni all'estero. Per un anno ha gestito la campagna vaccinale, vivendo periodi di stress notevole, raccontati nel libro Un italiano, scritto con Beppe Severnini. Diciamo che avevo i capelli tutti ben neri, ma a parte ciò, tanto impegno, però devo dire tante soddisfazioni. Il momento più difficile di questa esperienza? All'inizio, quando c'era da capire cosa bisognava fare, da strutturare la squadra, da pagare le fatture che erano già state staccate, oltre 1.400.000.000 di euro. E poi quando il virus sembrava abbattuto, dopo l'estate del 21, arriva la quarta ondata che noi abbiamo arginato bene proprio per effetto della percentuale che avevamo di vaccinazione superiore all'80%. C'è una cosa che farebbe diversamente? È chiaro, adesso con l'esperienza fatta si poteva anche comunicare forse in qualche modo meglio quando abbiamo avuto la crisi dei vaccini adenovirali. L'alpino Figliuolo alla Dunata Nazionale di Udine il prossimo anno ci sarà, annuncia. Le polemiche per le presunte molestie, le accuse, le penne nere a Rimini lo hanno amareggiato. Il corpo degli alpini è fatto fondamentalmente da persone serie che ci credono a ciò che fanno e che hanno un cappello dietro il quale ci sono state persone che hanno dato la vita per la patria. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. FIT, CISL, Friuli Venezia Giulia e SIULP insieme per dire basta agli episodi di violenza sui mezzi pubblici. L'appuntamento dalle 10 alle 13 davanti alla sede della CISL in piazza Dalmazia a Trieste. 50 le aggressioni sono nei primi 8 mesi dell'anno in Friuli Venezia Giulia, senza contare, dicono le sigle del trasporto e quella della polizia aderenti alla CISL, assalti verbali ormai quasi quotidiani subiti dal personale di treni e autobus. La richiesta della sigla è che le aziende prendano posizione in difesa dei loro dipendenti, fornendo formazione adeguata nella gestione delle situazioni critiche e adeguate protezioni durante il lavoro. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini incontrerà le candidate al Senato Tatiana Rojc e alla Camera Caterina Conti a Trieste alle 16.15 al gazebo del Partito Democratico in Piazza della Borsa. 12.15 Caffè San Marco di Trieste, le candidate per Italia sul Serio, Daniela Rossetti all'uninominale alla Camera Trieste Gorizia e Antonella Grimm, lista plurinominale Senato, presenteranno il programma della lista del Terzo Polo. L'onorevole Graziano Del Rio, ex ministro dei Trasporti, sarà oggi a Pordenone. Elezioni 2022, come la politica risponde ai bisogni delle persone, il titolo del convegno organizzato a Trieste dal Centro Culturale Monsignor Lorenzo Bellomi. Hanno confermato la loro presenza Antonella Grimm, candidata al Senato per Azione, Italia Viva Calenda, Maurizio Lupi, candidato alla Camera per Noi Moderati, Luca Sut, candidato alla Camera per il Movimento 5 Stelle. 18:15, Hotel DoubleTree by Hilton di Piazza della Repubblica a Trieste. Il coordinamento per la rappresentanza illustrerà a Trieste l'iniziativa nazionale di protesta il 25 settembre, tutte e tutti ai seggi per un reclamo contro il Rosatellum alle 11 al Caffè San Marco a Trieste. Politica di coesione 21-27, la nuova programmazione dei fondi Unione Europea, un'opportunità per gli attori del territorio, il seminario in programma oggi nell'Aula Magna del Polo Universitario di Gorizia dell'Università degli Studi di Trieste, organizzarlo l'Ateneo Giuliano con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, la società Euroservice in collaborazione con l'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia e diverse associazioni del territorio. A Gemona ieri il congresso della FDS, l'associazione friulana donatori sangue, un sodalizio storico che comincia a fare i conti con le difficoltà del passaggio generazionale. Meno numerosi ma più generosi. I donatori del sangue riuniti a Gemona per il 63esimo congresso provinciale della FDS, associazione con 50.000 iscritti, guardano alle sfide del futuro, tra cui il calo demografico. Pure in un territorio in cui è radicata la cultura del dono, già quest'anno si contano 1.000 donazioni in meno. Il presidente Roberto Flora. Siamo ancora una regione veramente che dona tanto, ma siamo una regione anziana. Quindi su ogni 3 donatori anziani che finiscono di donare per limiti d'età, ce n'è solo uno che entra, neodiciottenne. Dobbiamo far sì che questi donatori li prendiamo tutti, e però nei centri trasfusionali devono essere pronti ad accogliere tutti. Serve una formazione specifica del personale nei centri trasfusionali e mancano macchinari e autorizzazioni per far partire la nuova autoemoteca donata dall'azienda Danieli. Più di 2.000 i donatori premiati, con 52 donazioni ogni 1.000 abitanti contro 40 della media nazionale, siamo una delle regioni più virtuose, ha sottolineato l'assessore Riccardo Riccardi nel suo intervento, ricordando come la regione sia autosufficiente e garantisca scorte anche agli ospedali di Lazio e Sardegna. Lei a quante donazioni è arrivato? A 386 donazioni. Penso di aver fatto quello che la mia coscienza mi ha chiesto di fare. Cerco di continuare a farlo finché posso. Infine l'invito rinnovato al dono, specie ai giovani e alla fascia 30-50 anni. Luca Lakovic, coordinatore giovani AFDS Udine. Con 5 minuti puoi salvare una vita. Se sei soprattutto giovane puoi fare la differenza, perché la prospettiva che ti puoi dare a una persona è una vita davanti. Gemona del Friuli, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si è parlato dell'importanza delle donazioni di rene e dell'assistenza a chi soffre di patologie nefrologiche nell'assemblea regionale dell'Associazione Nazionale Emodializzati ANED che si è tenuta a Trieste. Giuliano Boscutti, direttore di nefrologia dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, ha fatto un bilancio dell'ultimo anno di lavoro del centro trapianti di Udine. È stato un anno che, nonostante il grosso impegno legato alla pandemia e ai problemi di questa, al programma di vaccinazione con i pazienti trapiantati e trapiantandi, è andato bene, nel senso che abbiamo fatto 58 trapianti, che sono più o meno quello che è il target nostro regionale. Di questi soltanto un trapianto è stato da vivente, appunto per le difficoltà della pandemia. Da quest'anno siamo partiti in maniera più decisa col trapianto da vivente, abbiamo già fatto al momento attuale 4 trapianti da vivente su 41 trapianti fatti complessivamente dall'inizio dell'anno, e contiamo di arrivare a 7-8 trapianti per la fine dell'anno da vivente. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, apertura straordinaria ieri al cimitero israelitico di Trieste in occasione della giornata europea della cultura ebraica. Wir sind aus Wien gekommen hier nach Trieste. Siamo venuti da Vienna a Trieste a cercare la tomba del mio familiare Giacomo Zerkowitz, mercante e rabbino giunto dalla Moravia alla fine dell'Ottocento, e ho trovato scolpite le due mani aperte, simbolo della stirpe dei Cohen, sacerdoti discendenti di Aronne. Queste sono le mie radici. Così Alexander Zerkowitz esprime la sua soddisfazione per aver trovato il tassello mancante nel suo albero genealogico, ma sono innumerevoli le storie europee e internazionali che si intrecciano al cimitero israelitico di Trieste in Via della Pace, realizzato a partire dal 1843. Le tombe più antiche del Settecento, traslate dall'originario cimitero di comunità in Via del Monte, hanno forme a sarcofago, sono i primi rabbini della comunità, ma qui riposano anche 50 soldati galiziani giunti a combattere con l'esercito austro-ungarico contro gli invasori italiani nella prima guerra, assieme a loro anche un prigioniero russo. Livio Vasieri, assessore alla cultura della comunità ebraica di Trieste. Abbiamo per esempio i Morpurgo, che sono i fondatori delle assicurazioni generali, oppure c'è Lionello Stock. Lionello Stock ha fondato le distillerie omonime. E non dimentichiamo il capitano Umberto Steindler, che è riuscito a organizzare una linea diretta da Trieste a Haifa. Almeno 150.000 ebrei sono riusciti a scappare da Russia, Polonia, Ungheria, dove c'erano dei gravi pogrom, sono scappati in Palestina. Trieste, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora la pagina dello sport, con il calcio in primo piano, la quinta vittoria di fila dell'Udinese che batte l'Inter in rimonta fa sognare i tifosi friulani che si ritrovano per qualche ora in testa alla classifica prima che le vittorie del Napoli sul Milan e dell'Atalanta a Roma la riportino in una comunque ottima terza posizione a 16 punti, uno solo di distanza dalle due capolista. Dopo il vantaggio nerazzurro di Barella su punizione, il pareggio nella seconda squadra, della squadra di Sottil grazie all'autorete di Skriniar, nel secondo tempo i gol partita di Biol e di Arslan nel recupero che confermano l'Udinese vera e propria sorpresa del campionato. Sentiamo il tecnico Andrea Sottil che ancora una volta con i cambi della ripresa ha permesso alla sua squadra di tenere sempre l'intensità di gara molto alta. Hanno dato di nuovo cambio di passo, Isaac è entrato benissimo, Lazar, King, Tolgai, Enzo Bossè, tutti quanti sono entrati veramente bene e hanno ridato forza alla squadra, inerzia, siamo ritornati nel loro metà campo e hanno schiacciato l'Inter, perché si può dire che veramente l'Udinese ha messo in grande difficoltà l'Inter. Il secondo gol era che, questo è un paradosso un po' che simpatico, poi ci siamo abbracciati con Pereira, volevo che calciasse Samacic l'angolo, perché non che De Lofeo non li calci bene, difatti poi allora gridavo Samacic, poi quando De Lofeo ha calciato io ho detto meno male che ha calciato De Lofeo, non ha calciato Samacic, ecco, questo è un po' l'aneddoto. Ma andando a cercare, volendo trovare dei problemi, tra virgolette, tutto questo entusiasmo la preoccupa, perché a Udine comunque erano almeno 8 anni che non si viveva così questo entusiasmo, insomma si ricordano i tempi addirittura di Guidolin, la preoccupa magari quando arriveranno, sicuramente arriveranno tempi un po' più difficili? Non mi preoccupa perché io sono una persona molto equilibrata, quindi non mi deprimo nelle non vittorie o quando magari abbiamo pareggiato in casa con la Salernitana, non mi deprimo e non mi esalto in questi momenti. Sono molto contento, sono soddisfatto, ma so stare coi piedi per terra, conosco bene questo mondo, il nostro campionato, il calcio, quindi noi dobbiamo semplicemente festeggiare oggi perché è giusto farlo, gioire per questo primato, per questa grande vittoria contro l'Inter perché va fatto, e poi, come sempre abbiamo fatto, pensare poi a preparare il Verona partita dopo partita. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un podio tutto keniano, sia maschile che femminile, alla 22esima maratonina internazionale Città di Udine, a trionfare nell'edizione della piena ripartenza Mitei Musa Kipyosyan, alla sua prima mezza in Europa, si è imposta con un tempo di 1 ora e 02 e 05. Tra le donne invece ha brillato la keniana Janet Kepregi, Kepnegdich con il tempo di 1 ora 8 minuti e 24, record femminile della manifestazione atletico udinese. Ottimo anche il risultato di friulani, Francesco Nardone 7° e Tobia Beltrame 8° in 900 ieri al via, 89 anni il corridore più anziano, 19 quello più giovane. Una manifestazione che ha impegnato oltre 200 persone tra volontari e forze dell'ordine, è soddisfatto il presidente dell'associazione maratonino udinese Paolo Bordon. Record del percorso femminile al netto del mondiale che avevamo organizzato nel 2007 con un tempo di 68 minuti e sono tempi di livello internazionale veramente importanti. Noi siamo soddisfatti che un percorso così veloce abbia valorizzato atleti così importanti, ma soprattutto è stata una bella giornata all'insegna della ripartenza dello sport con la città che ha partecipato in maniera importante. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Da oggi al 22 settembre il comitato organizzatore di EIOF 2023 Festival Olimpico della Gioventù Europea, che si terrà dal 21 al 28 gennaio del prossimo anno in Friuli Venezia Giulia e che vedrà la partecipazione di migliaia di giovani atleti tra i 14 e i 18 anni provenienti da 47 paesi, ospiterà la commissione EIOF 2023 del comitato olimpico europeo, 70 capi delegazione provenienti da 42 nazioni europee, un gruppo di observer delle future edizioni dell'evento per un totale di un centinaio di persone. Il programma prevede delle visite di itinerari in alcune delle località di gara, tra cui Tarvisio in Carnia, poi a Clout, e un seminario in calendario per mercoledì ad Amaro nella sede di EIOF 2023. In questa occasione verrà presentata agli ospiti la 16ª edizione invernale del festival, che vedrà l'intero Friuli Venezia Giulia coinvolto nel più grande evento multisport per i giovani d'Europa con 12 sedi di gara. 7:44 in questo istante, andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani che possiamo trovare in edicola questa mattina. Partiamo con il Piccolo di Trieste, giù i resti della Ferriera, Servola svolta pagina. È il titolo scelto per celebrare la demolizione dell'area a caldo dell'impianto siderurgico, foto suggestiva dall'alto al tramonto con i fuochi d'artificio, critici gli operai. Molto lo spazio dedicato dal quotidiano sulla questione, l'apertura del giornale invece è sul consumo di suolo, toccati i valori più alti di consumo nell'ultimo decennio. Al primo posto Monfalcone con il 45% del territorio occupato. La corsa del cemento in regione, spariti 100 ettari in un anno. Troviamo anche il parere degli ecologisti. Per l'altra cronaca, un grosso albero si spezza e cade in mezzo alla strada, paura in via Giulia. E poi lo scontro comune cultura, il cartellone del Revoltella riapre lo scontro sui civici musei. Bella anche la foto a piedi pagina dedicata alla Rampigada Santa, la competizione lenta da Roiano a Opicina, correndo oppure in bicicletta in salita. Sul Messaggero Veneto di Udine la grande apertura nella metà alta della pagina è per la straordinaria giornata del calcio e l'esultanza dei giocatori bianconeri. Questa udinese fa sognare dopo il KO dell'Inter e i friulani sempre a un punto dalla vetta della classifica. Sotto l'altro titolo, mappa dello smart working, se ne parla in due pagine interne. Il 22% delle imprese regionali, si legge ancora, vuole adottare il lavoro da casa, a sceglierlo sono soprattutto le donne. Altra fotonotizia in prima pagina per la maratonina di Udine, oltre 1300 in corsa, festa nelle strade della città. La manifestazione occupa due pagine della cronaca cittadina, a correre anche lo scienziato Mauro Ferrari. Di spalla alla cronaca si rompe una tubatura, acqua e detriti in strada, disagi in due condomini in via Bu. In prima pagina anche la politica internazionale con l'Ungheria in primo piano e poi i 600 friulani che hanno preso parte al raduno leghista di Pontida. Sul Gazzettino nel dorso del Friuli il duce sui manifesti del centro-sinistra è Bufera. Il volto di Mussolini è stato incollato da ignoti su alcuni manifesti politici del centro-sinistra a Cervignano. Subito sotto titola tutta pagina per l'udinese da primato che sogna l'Europa. In taglio basso anche il basket con il prossimo match dell'Apu in Supercoppa di A2 domani a fianco il premio ai tour operator che fanno arrivare turisti in Friuli Venezia Giulia nel pacchetto sostegni della regione. Fotonotizia diversa per il Piccolo di Gorizia, tra le vigne del Coglio in sella bici d'epoca, si parla della manifestazione Coglio Birda Classic. Il quotidiano Edizioni Sontini in prima pagina apre con le polemiche sui finanziamenti del comune nel mondo della cultura. E storie e premio Amidei prendono il 65% dei fondi, escluse decine di associazioni. L'assessore Oretti, contestato, promette più fondi nel 23%. per la cronaca di Monfalcone. Invece davanti al TAR verrà discusso il ricorso di Green Coop Sociale contro l'esito della gara giudicata alla Marina Monfalcone SRL. Si parla che a novembre l'udienza ci sarà sulla concessione della spiaggia di Marina Nova. Ragazzo accoltellato, polemica sulla sicurezza e l'apertura del Gazzettino di Pordenone su quanto è successo sabato pomeriggio in pieno centro dopo una lite tra due giovanissimi che sono entrambi stati denunciati. Il più grave ha una costola rotta a causa della coltellata e 30 giorni di prognosi. Accanto raid notturno sabato notte, falliti due colpi in altrettanti supermercati a Sacile e a Pordenone, ladri inseguiti, fuga a piedi nei campi. Sotto grande titolo per la festa del libro ritorna la Pordenone legge dei 100.000 e nella fotonotizia più sotto da Corona a Brown le ultime star. In taglio basso il calcio con titoli per l'Udinese e per il Pordenone, neroverdi solitari si legge in testa alla C. Sulla prima pagina del Messaggero Veneto con il calcio l'apertura è per gli oltre 100.000 visitatori a Pordenone Legge, con pagine interne dedicate all'evento culturale nella cronaca e nella cultura. Di spalla, morto il pensionato che era caduto dalle scale della banca, era successo in via Treviso, e poi a Porcia sfilano 700 alpini, nessuno infanghi il nostro nome, dicono. In chiusura un po' di appuntamenti alle 20.30 in Sala Luttazzi a Trieste, organizzato dal Circolo della Stampa. Va in scena Tutto fu ambito e tutto fu tentato, fenomenologia di Gabriele D'Annunzio con Massimo Somaglino, Marzia Postogna, Veronica Vascotto e Cristina Santini. L'ingresso è libero. Presentazione del libro Silva Lupanica di Anne Meinhorn, incontro con la natura selvaggia degli ultimi boschi della Bassa Friulana. Lo organizza il Circolo Fotografico di Romance di Sonzo, il Torione, a Romance, al Centro Culturale Candussi Pasiani, alle 20.30. Alle 18 la libreria Lovat di Trieste, incontro con lo scrittore inglese Nick Hunt, viaggiatore appassionato, i suoi articoli escono regolarmente sul Guardian e sull'Economist. Il suo libro Dove soffiano i venti selvaggi di Neri Pozza, edito Neri Pozza, racconta anche la bora definita dall'autore come l'enfant terrible dell'Adriatico, attraverso un itinerario che ha toccato i luoghi del vento in Slovenia, Croazia e naturalmente a Trieste. Nick Hunt dialogherà con Rino Lombardi del Museo della Bora. Udine e Trieste ancora una volta in sinergia amministrativa unica a livello nazionale, si rinnova il format comune per reclutamento del personale ideato e promosso dai conservatori musicali delle due città, il Conservatorio Tartini di Trieste e il Conservatorio Tomadini di Udine. Oggi scade il bando per assistente, si ricercano diplomati delle scuole secondarie superiori, aspetto peculiare della sinergia fra i due conservatori è che la destinazione di impiego potrà poi interessare l'una o l'altra istituzione. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali, l'edizione flash del giornale radio. A seguire Voeof Velindi parlerà della raccolta di funghi freschi spontanei con il Centro Micologico Friulano, che organizza corsi, mostre ed escursioni guidate. Alle 11.20 la radio che pedala con i benefici delle due ruote anche per i portatori di fragilità o disabilità fisiche. Alle 11.15 foto radiografie con i film di guerra che raccontano la vita di fotografi e scatti che fanno parte del nostro immaginario. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale. In regia Vassia Krismancic e Maurizio Mona, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Andrea Saule e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.